Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. In queste settimane dedicate agli oranghi, noi abbiamo pensato che fosse indispensabile prendere la cosa molto seriamente. Sì, seriamente, e proprio studiare in qualche modo che rapporto c'è tra le neuroscienze e il razzismo. Cosa succede nel nostro cervello quando incontriamo una persona di etnia diversa dalla nostra? A Trieste si inaugura con il ministro Chieng un corso di studi dal titolo Neuroscienze e razzismo. Agitato, non mescolato. Così James Bond vuole il suo cocktail. Ma che differenza c'è? Un nuovo libro ci racconta la scienza di 007. Si chiama iTunnel. È il robot innovativo che spegne gli incendi in galleria in pochi minuti. Eccoci qua, Chiara. Allora, Neuroscienze e razzismo è un titolo che abbiamo dato, tu l'hai dato live adesso, però è anche il titolo di un corso. Di un corso di studi che si sta tenendo in questo periodo, nella fase estiva, alla Sissa di Trieste. E abbiamo due ospiti, Raffaella Rumiatti. Buonasera, Rumiatti. Buonasera. Che è coordinatrice di questo corso e docente di neuroscienze cognitive alla Sissa. E poi abbiamo Francesco Foroni, buonasera, benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti. Ricercatore invece in neuroscienze sociali, sempre alla Sissa di Trieste. Partiamo forse con la dottoressa Rumiatti, che ci introduce un pochino questo corso e che tra l'altro è stato introdotto dalla ministra Chieng proprio pochi giorni fa. Ha parlato ai vostri studenti proprio su questo tema, questo rapporto delicato che esiste tra il cervello e il razzismo. Sì, è una scuola estiva che dura 2 settimane e diciamo che ha come fuoco d'interesse l'interazione tra il cervello e la società. I temi sono diversi e il razzismo è certamente stato uno dei più importanti e anche diciamo molto attuali. Sì, purtroppo. Gli altri temi riguardano in generale diciamo come noi percepiamo gli altri, come li valutiamo, ma anche però altre cose come per esempio le scelte che riguardano il cibo oppure appunto le decisioni economiche e così via. E questo in realtà è solo apparentemente, questi temi sono solo apparentemente disgiunti, infatti come abbiamo sentito spesso durante le lezioni di questa scuola, Sono processi e decisioni che coinvolgono sistemi cerebrali sovrapponibili, quindi evidentemente usiamo le stesse strutture per prendere decisioni che riguardano tutti questi diversi aspetti della nostra vita mentale. Quello che ci interesserebbe sapere, visto che parliamo di neuroscienze, quindi di ricerche che analizzano proprio il comportamento del cervello, noi spesso in onda per esempio parliamo di neuroimaging, quindi di questi segnali, di queste aree che si attivano a partire da certi comportamenti che si attivano nel cervello. Ecco, in che modo è possibile, Foroni, attraverso le vostre ricerche, riuscire a trovare delle connessioni con un comportamento complesso come questo del razzismo? Ovviamente le ricerche di neuroscienza sono fatte in una maniera abbastanza controllata, per cui abbiamo partecipanti che fanno una risonanza magnetica mentre gli chiediamo di esprimere dei giudizi, per cui negli esperimenti non possiamo proprio studiare il comportamento vero e proprio reale che vediamo sulla strada, però possiamo fare delle inferenze. Gli studi che sono stati fatti, per esempio, hanno mostrato come noi, il nostro cervello, reagisce diversamente quando vediamo e guardiamo e interagiamo con una persona di un'etnia nostra, come la nostra, o di un'etnia diversa. Ma in che modo? Cioè, cosa vedete nel cervello? Si vede nel cervello che il sistema legato alle emozioni, e in particolare alle emozioni della paura, che viene identificato con la struttura dell'amigdala, è molto più attivo nel momento in cui interagiamo con persone di etnie diverse. Questo aspetto è molto interessante perché ha fatto concludere a degli studiosi di New York, e ne avevamo qua uno ieri, Elizabeth Phelps, alla scuola, che ha presentato alcune delle sue ultime ricerche, ha fatto concludere che la nostra prima reazione, il nostro cervello elabora i membri di un'etnia diversa con lo stesso tipo di strutture che elaborano le informazioni minacciose. Quindi il nostro cervello reagisce quasi come se i membri di un'altra etnia siano minacciosi e inducano paura. La cosa molto interessante però è stata anche che da altre ricerche successive a queste ricerche della Phelps si è notato che ci sono dei fattori che aiutano il cambiamento delle reazioni del nostro cervello, in particolare il familiarizzare e conoscere membri delle altre etnie riduce questa risposta del nostro cervello. Quindi Foroni, se abbiamo capito bene, cervello. In maniera innata si ha la percezione di paura quando si incontra una persona di etnia diversa, poi ovviamente l'esperienza, la parte culturale attutisce questo comportamento tra virgolette razzista, è così? Oppure lo acuisce. Ma in realtà lo acquisce in parte nella sua risposta. In particolare la cosa interessante è che familiarizzare riduce questa risposta di paura. La risposta dell'amigdala è presente anche quando incontriamo qualcosa che è sconosciuto, che generalmente il nostro cervello tratta molto velocemente come qualcosa che potenzialmente potrebbe essere pericoloso. Sì. Per cui è la conoscenza. Ok, tutto ciò che non si conosce in qualche modo genera questa risposta. Perché potenzialmente può indurre un pericolo, siccome non conosciamo questo stimolo, non sappiamo ancora se è pericoloso per noi, per cui ci può induce il nostro cervello a elaborarlo con questo sistema. Ma mi immagino che anche la Raffaella possa aggiungere qualcosa su questo argomento. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo le nostre considerazioni su neuroscienze e razzismo con Raffaella Rumiati e Francesco Foroni dalla Sissa di Trieste, dove c'è un corso, una scuola estiva su queste tematiche. Eravamo arrivati a capire, mi pare, insomma, che possiamo dire così, che quello che riuscite, le cose su cui riuscite a lavorare sono, come dire, i fondamenti, le premesse importanti, no, di un atteggiamento che poi dopo diventa quello del razzismo, Rumiati. Sì, io direi che la scuola ci ha insegnato non solo che diciamo, siamo caratterizzati da questo pregiudizio implicito che in qualche modo non riusciamo a controllare, ma ci ha anche insegnato che in realtà possiamo fare qualcosa per controllarlo. Bene. E queste sono buone notizie, no? Specialmente in questi tempi. E gli studiosi anche ritengono che sia un comportamento più auspicabile quello del controllo che deve seguire la comprensione di questo tipo di percezione che abbiamo degli altri, perché se tentiamo di ignorarlo è molto peggio. In inglese si dice fires back, cioè poi se ne pagano delle conseguenze anche maggiori. Certo. Possiamo sapere qualcosa su chi sta frequentando questa scuola estiva? Tutta gente che lavora nel campo delle neuroscienze oppure avete anche altri? E poi quanti anni hanno gli studenti? Sono 20 studenti che sono stati scelti tra 120 applicanti che vengono da tutto il mondo e anche dall'Italia. E sono studenti di dottorato di neuroscienze e anche qualche neodottore. Per fare gli esperimenti di questo tipo, neuroscienze e razzismo, come scegliete le cavie? No, perché io qualcuno da suggerirvi lo avrei, ma cioè, insomma, qualcuno che si deve dichiarare razzista, sì, o come fate? Qualcheduno anche da curare, no? Generalmente gli esperimenti vengono fatti su varie fasce di età, per cui già lì quello è uno dei criteri per la selezione. Più che cavie li chiamerei partecipanti, però certo. Noi li selezioniamo come volontari e poi all'interno di questo campione di volontari generalmente riusciamo a identificare quelli che sono più o meno razzisti, quelli che lo sono e però lo ammettono anche e lo sono però non lo ammettono. Niente, quindi non ne avete bisogno di nuovi, ok. Tipo, ne abbiamo sempre bisogno di lavoro, ce ne sarebbe molto da fare, però voi non sapete nulla delle persone prima, fate l'esperimento e poi dopo magari parlando riuscite a identificarli un po' di più, sì, oppure no? Durante gli esperimenti gli facciamo fare diversi compiti, gli facciamo completare dei questionari già usati nella letteratura per capire che tipo di atteggiamento hanno e che tipo di opinione hanno nei confronti dei gruppi etnici, potrebbe essere di altri gruppi sociali. È abbastanza simile la procedura in questo tipo di ricerche. Generalmente poi, se sono esperimenti di neuroimmagine con risonanza magnetica, questi partecipanti vengono all'ospedale a fare l'esperimento, o se no vengono nei laboratori qua della SIS se sono altri tipi di esperimento come quello dell'elettromiografia oppure della... Quelli un pochino più complessi, certo. Va bene, grazie, davvero buon lavoro Rumiati e Foroni e buon proseguimento. Buona ricerca. Grazie a voi, buona serata. E adesso Chiara Albicocco e Alberto Agliotti vi parlano di 007, la fisica di James Bond. Ascoltateli, naturalmente inizia così. Bello iniziare con la colonna sonora di uno dei film della serie televisiva più conosciuta veramente in tutto forse il mondo. Sì. Ecco, ci hanno appena sparato. Direi di iniziare parlando di che cosa? Un libro, Alberto? Parliamo di un libro, che è uscito da poco. E della fisica di 007. Beh, certo, perché noi sempre dobbiamo metterci un po' di fisica, un po' di matematica. In questo caso ci abbiamo messo un po' di numeri, dici? È un po' di 007. Numeri, esatto. I segreti della scienza al servizio di Sua Maestà, casa editrice Scienza Express, e i due autori sono... Gli autori sono qui con noi. Allora, il nostro Emiliano Ricci, che di solito noi utilizziamo per rispondere alle domande di scienza dei nostri ascoltatori, quindi il nostro fisico di fiducia. Ciao Emiliano, bentornato. Ciao, grazie a voi. Un'altra nostra collega, per cui ci diamo del tu, che è già stata nostra ospite, Monica Marelli, anche tu sei fisico e ovviamente divulgatrice scientifica come noi. Sì, ciao Monica, ciao, bentornata. Ciao Monica. Allora direi di partire facendo sentire di nuovo il nostro 007, non solo lui ma anche qualcuna delle sue ospiti. Agitato ma non mescolato. Martini per il nostro ospite, Olin. Subito. Agitato, non mescolato. Naturalmente. Per il signore invece, vodka martini agitato, non mescolato. Un martini semisecco, scorza di limone, scuotere e non agitare. Miss Kennedy, mi porta un vodka martini non troppo secco. Perché non shakerato, non mescolato. Shakerato, non mescolato. Agitato, non mescolato. Non mescolato, infatti. Abbiamo sentito dei pezzettini, degli spezzoni di film presi da vari 007. Si ripete questa cosa, quindi Monica, devi spiegarci che cosa significa shakerato o agitato, ma non mescolato, mi raccomando. Ma non mescolato, perché James ha dei gusti ben precisi e guai a non accontentarlo. Allora, alcuni scienziati si sono domandati se veramente queste sono delle fisime di James Bond oppure se c'è qualcosa di vero, cioè nel senso, James Bond potrebbe sentire la differenza, ma guardate, a quanto pare James Bond ha ragione, nel senso che ci sono un po' di differenze. Per esempio, agitandolo si provoca delle micro briciole, diciamo, di ghiaccio che effettivamente diluiscono un po' la bevanda e la rinfrescano di più, e gli esperimenti hanno dimostrato che un cocktail agitato non mescolato rimane circa 3 minuti più fresco, più a lungo, e quindi James non ha tutti i torti. Poi tenete conto che durante l'agitazione si ingloba più ossigeno e viene liberato più alcol, quindi anche questo può influire sul gusto, che poi è un po' lo stesso principio del fatto che bisogna far respirare il vino rosso, no? Quindi metterlo a contatto con l'aria, l'ossigeno ossida alcuni ingredienti e quindi il gusto ci guadagna. Quindi James mi sa che ha proprio ragione. E quindi una differenza incredibile. Adesso anche noi quando andremo al bar stasera, insomma, lo prenderemo agitato, esatto, ma non mescolato. A parte che 3 minuti in un cocktail sono tanti. Sono tanti, sì. Invece adesso andiamo da Emiliano. Andiamo da Emiliano, sì, e facciamo sentire un altro audio. Goldfinger, appunto. Era chiaro. Per chi non avesse capito, dalla musica è arrivata anche la voce. Allora, in Goldfinger c'è una delle scene di morte, diciamolo, più spettacolari di tutta la serie, ed è quella della segretaria del cattivo Goldfinger, appunto, che muore ricoperta da una densa vernice d'oro. e si dice che è stata soffocata dalla presenza della vernice, ma forse le cose non sono esattamente così. Emiliano Ricci. Esattamente, sì, è una scena cult della cinematografia mondiale, direi, che però rappresenta in realtà una morte non possibile, non è uno dei casi in cui viene rappresentato viene fatta una diagnosi di morte impossibile, perché James Bond stesso dice che lei è morta soffocata perché all'epoca si pensava che anche la pelle respirasse, la pelle contribuisse a respirare, quindi lo spesso strato di vernice d'oro avrebbe in qualche modo impedito al corpo di respirare, quindi avrebbe condotto alla morte. In realtà noi adesso sappiamo che Goldfinger è del 64, pensate, in realtà sappiamo che la respirazione si pratica sostanzialmente attraverso la bocca e il naso, e quindi non poteva senz'altro morire soffocata perché ricoperta di oro. E in ogni caso, appunto, avendo questo timore, i produttori del film avevano lasciato una larga parte di pelle dell'attrice libera. Quindi non si tratta di una di quelle esagerazioni dei film che forzano la realtà scientifica, e nelle intenzioni degli sceneggiatori era vero. Quindi era un falso scientifico della scienza, però. Assolutamente, secondo loro doveva effettivamente succedere, quindi si premurarono di evitare questo problema non avvolgendola tutta nello strato di vernice. Poi in realtà sappiamo che la pelle effettivamente contribuisce in qualche misura a dare ad aiutare il corpo a sopravvivere, ma soprattutto in termini di termoregolazione attraverso la traspirazione e il sudore. Emiliano, detto questo, forse nel 63, come dici tu, il materiale utilizzato non era proprio il massimo da mettere sulla pelle, o no? Comunque non procurava nessun danno. No, sì, allora, ci sono capitati dei casi abbastanza curiosi di danni da contatto, di una dermatite, non so, con vernice, dermatiti, sì. In particolare il celebre è il caso dell'attore Christian Rudolph Ebsen Jr., che appunto scritturato per la parte del dominio di latta nel Mago di Oz, venne truccato appunto con una vernice a base di polvere di alluminio, e effettivamente lui risentì gli effetti, perché manifestò un'allergia al metallo e quindi ebbe insomma dei gravi effetti, un'infiammazione polmonare, crampi e così via, però insomma non si muore. La morte, ma non perché non respirava, ma perché era allergico. Certo, per una forte allergia. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bene, allora riprendiamo con i nostri ospiti, i nostri fisici, Monica Marelli e Emiliano Ricci, per parlare della fisica di 007. Ricominciamo parlando di Bond Girls, perché tanto quanto lui sono famose e note, certo. E ora rimaniamo sempre nelle scene cult che hanno fatto il cinema mondiale. Sentiamo questo spezzone che sicuramente tutti riconosceranno. La la la di da honey and me. Underneath the mango tree, my honey and me. Questa. E questa è la scena veramente forse più conosciuta, con Ursula Andress che esce dalle acque con due meravigliose conchiglie, canta e così via, e lui, James Bond, che la osserva da lontano e poi insomma si palesa facendo finta di cantare la sua stessa canzone. Ecco, quindi Monica, vogliamo parlare del bikini di Ursula Andress oppure del trucco di Ursula Andress? Certo, parliamo del bikini nel senso, dal punto di vista scientifico, perché noi donne siamo tremende, no? Perché abbiamo visto questa sirena, questa Ursula Andress perfetta, e nota bene che a quei tempi la chirurgia estetica non c'era ancora, non massacrava ancora i corpi delle attrici, quindi lei è tutta bellissima, però noi donne abbiamo l'occhio allenato per scovare i difetti. Cos'hai notato? Ho notato, da scienziata naturalmente, mica perché sono invidiosa, roba certo, del genere. Certo, no. Ecco, ho notato che questo bikini è un po' molliccio, non so se voi maschietti sì, l'avete notato. Emiliano, scusa, l'avevi notato? Io da Emiliano. Onestamente no. neanche aperto. Vabbè, io te l'abbiamo notato, Monica. Sì, effettivamente facciamo un po' di pieghine sul seno. Un po' di pieghine sul seno, per non parlare sul lato B, che proprio non lo esaltava per niente. Però in questo caso, insomma, l'attrice è bellissima, ma sono le fibre che tradiscono un po' l'immagine, perché quel costumino bianco era di cotone. Il cotone è una fibra fortemente idrofila, cioè assorbe l'acqua e di conseguenza lo rammollisce, quindi diventa molle e non aderisce perfettamente al corpo. Un effetto che invece sarebbe stato possibile ottenere soltanto 2 anni dopo, quando la licra, questa fibra sintetica, viene introdotta anche per i costumi da bagno, che finalmente diventano belli aderenti. Che tra l'altro la scena di Ursula Andress viene omaggiata nell'altro film in cui è protagonista Alberry. Non so se vi ricordate che lei, anche lei esce dall'acqua col cinturone e indossa questo bikini arancione aderentissimo sulle sue forme perfette. Stavolta era aderentissimo, no? Emiliano, l'avevi notato questa volta che era aderentissimo. E Monica, e questo trucco, lei esce dall'acqua tutta bagnata ovviamente, però il trucco è perfetto, ha un viso meraviglioso. Com'è possibile anche questo? Certo, il trucco è perfetto, e poi vedremo anche le altre Bond Girl che quando escono non solo dall'acqua ma anche dalle esplosioni di tutti i tipi sono sempre perfette. Ma perché? Perché c'è il trucco offerto dalla chimica, che è riuscita a produrre un trucco waterproof, cioè resistente al calore, al sudore. Si tratta di trucchi, quindi ombretti, mascara, fard, fondotinta, che sono leggermente più ricchi di cere che quindi respingono l'acqua e resistono più a lungo. E naturalmente questi trucchi oggi sono a disposizione. Ecco, infatti adesso è abbastanza normale, insomma, averli nella propria pochette, certo. Diciamo. Però negli anni 60, insomma, non era banale. No, non era banale, erano le primissime applicazioni, e poi teniamo conto che i truccatori di Hollywood sanno veramente fare miracoli. E allora adesso torniamo ai maschietti. Torniamo a un qualcosa da indossare anche in questo caso, però è un giubbotto antiproiettile. Emiliano. Sì, il giubbotto antiproiettile. Il giubbotto antiproiettile sembra curioso parlarne per i film di James Bond, perché in realtà, almeno apparentemente nei film, James Bond non sembra indossarne mai uno, anche se sicuramente alcuni suoi colleghi, sicuramente Q, il gestore del laboratorio segreto, in una scena per l'appunto di Missione Goldfinger, carica un intero caricatore contro un collega che è protetto dal giubbotto antiproiettile. Ci accorgiamo per esempio del fatto che James Bond non ne indossa mai uno, perché rimane spesso ferito, e anche nell'ultimo film, in Skyfall, viene effettivamente colpito, e fortunatamente, proprio perché viene colpito, alla fine poi si salva. Il giubbotto antiproiettile in che cosa consiste in realtà? È un strumento che serve a proteggere gli organi vitali, quindi il cuore, il fegato, i polmoni, quindi viene indossato per proteggere il tronco del corpo, ovviamente, e basa il suo funzionamento fondamentalmente sul fatto di essere costituito da diversi strati di materiali, tra cui anche metalli, alluminio, acciaio, titanio, ma soprattutto basato sull'uso di una sostanza, una fibra sintetica, che è appunto il Kevlar. E c'è una storia interessante dietro? Allora, è una storia interessante perché effettivamente è prodotta, inventata nel 1965 dall'industria chimica DuPont, che è un'industria chimica statunitense. In realtà questa industria viene fondata nel 1802 dal francese Eleuthère René Dupont de Nemours, nome complicatissimo, che è famoso oltre per aver fondato appunto la DuPont, fu tra gli assistenti Antoine Laurent de Lavoisier, che è considerato il padre della chimica moderna. La DuPont, oltre ad aver inventato il Kevlar, è famosa per aver inventato decine di altre fibre e altre sostanze come il nylon, il neoprene, il teflon, tanto che bene sapere che quando noi usiamo queste espressioni, queste espressioni tipo nylon, neoprene e teflon, in realtà sono marchi registrati, non parliamo della sostanza grezza, ma diamo effettivamente il nome registrato. Il Kevlar ha una caratteristica fondamentale, che è una fibra leggerissima ma estremamente resistente alla trazione, ha una resistenza meccanica altissima. Per esempio, a parità di peso, il Kevlar è 5 volte più resistente dell'acciaio. Quindi, intrecciando nei giubbotti antiproiettile metalli e soprattutto Kevlar, si riesce in qualche modo a bloccare il proiettile sparato e farlo, come dire, entrare leggermente all'interno della fibra del giubbotto antiproiettile, ma fermarne la corsa prima che ovviamente riesca a penetrare nel corpo della persona a cui viene sparato. Questo funzionamento si basa proprio sul fatto che il Kevlar può essere tirato, ma è resistentissimo e non si spezza fondamentalmente. E allora chiedo a Monica, che c'è un intero capitolo nel libro che parla di tacchi al volante, queste Bond Girls che si trovano a dover guidare con delle calzature improbabili, anzi probabilissime, però in effetti non per guidare, non comodissime. Monica. Noi donne siamo piene di risorse, quindi riusciamo anche a guidare con un tacco 12. Certo, ci vuole un po' di allenamento, però le Bond Girl, non so se vi ricordate, ma più di una volta hanno fatto sfoggio di questi stiletti scendendo dalle macchine super sportive. Loro non hanno nessun problema. La cosa curiosa è che ho scoperto che nel Regno Unito, nella patria di James Bond, sono soprattutto le donne a usare delle orrende infradito per guidare, sono le calzature preferite dalle donne, mentre in Italia noi ci confermiamo ancora una volta, insomma, delle donne di gusto, preferiamo i tacchi. E la cosa curiosa è che quelle che le usano di più in assoluto, secondo un sondaggio avvenuto da parte di un'assicurazione online, sono sicuramente le bresciane, seguite dalle romane, cagliaritane e palermitane. Cioè, hanno il tacco più alto possibile per guidare. Loro guidano tranquillamente. Fanalino di coda dei tacchi in tutta Italia sono proprio le milanesi, ma io sospetto che sia proprio lo stile di vita del correre. Le milanesi preferiscono le ballerine. Ballerine. Ma la legge non dice niente sulle calzature da usare? La legge consente di guidare con qualsiasi tipo di calzature, perché fino ai primi anni 90 era vietato, per esempio, guidare con gli zoccoli, gli infradito, i piedi nudi. Ecco, sì, dovevano essere legate nel tallone. Sì, certo. E effettivamente era una buona norma, perché comunque se guidi con l'infradito rischi che ti scivoli via la calzatura. Però adesso la legge lo consente, quindi non ci sono più pericoli di vedersi arrivare una multa, però... gli esperti consigliano sempre di indossare delle calzature comode, anche perché è importante avere quello che si chiama il feedback, cioè tu devi sentire bene quando spingi il pedale. Qui nel libro cito anche il caso della Bond Girl che si vede nell'ultimo film in apertura. Lei è tutta vestita da militare eccetera, però indossa degli scarponcini stringati. Anche quelli non vanno bene perché non permettono un buon gioco della caviglia. Emiliano, restando nel campo degli accessori, ce ne sono di quelli che usa invece James Bond che sono maschili, che sono un po' improbabili, diciamo. Voglio dire, possono esistere degli occhiali ai raggi X oppure degli orologi con dei magneti che deviano i proiettili? Ecco, no, appunto, sì, fra i tanti gadget che James Bond usa, ce ne sono tantissimi reali, funzionanti, come il jetpack, il jet in portatile, cose di questo tipo, però usa anche purtroppo dei gadget che rientrano nell'ambito della fantascienza. Di questi ce ne sono senz'altro due che sono fondamentalmente impossibili da realizzare, in particolare gli occhiali a raggi X che vengono utilizzati da James Bond non possono esistere, non possono funzionare. Perché? Perché i raggi X, come tutti noi sappiamo, funzionano fondamentalmente attraversando il corpo delle persone quando andiamo a farci le radiografie, ma i raggi X devono essere prodotti e il macchinario dei raggi X, lo sappiamo, è un macchinario abbastanza grande che serve ad accelerare e frenare gli elettroni. Insomma, sarebbero occhiali un po' ingombranti. Sarebbero occhiali molto ingombranti, e poi soprattutto questi raggi X devono essere in qualche modo fermati da una lastra sensibile, quindi dovremmo mettere uno schermo dietro persona che viene osservata ogni ragazzo. Quindi l'effetto sorpresa in qualche modo verrebbe meno, perché sì, diciamo, dovrebbe collaborare anche la persona. Dovrebbe collaborare la persona che viene osservata. E l'altro gadget, diciamo fantascientifico, è il famoso orologio, che il Rolex Submariner, il celebre orologio del mondo, almeno delle prime serie, poi recuperato anche negli ultimi film, che viene di volta in volta dotato di gadget, quindi da vari accessori, quindi da laser, da seghe circolari e cose di questo tipo. Nel film Vivi e lascia morire viene dotato con un magnete deflettore. Purtroppo questo non è possibile, perché la deflessione magnetica funziona sostanzialmente in presenza di particelle cariche, quindi noi dovremmo essere sostanzialmente in grado di deflettere soltanto proiettili carichi elettricamente. Questo è chiaro. Al limite sarebbe in grado di attrarre o deflettere con materiali ferromagnetici, quindi proiettili fatti di ferro. Purtroppo la maggior parte dei proiettili è di piombo, e il piombo non è uno di quei materiali che si fa attrarre dai magneti, e quindi il magnete deflettore è condannato alla fantascienza. Niente. Va bene, allora io vi ringrazio, Monica Marelli e Emiliano Ricci, è davvero molto carino questo libro, secondo me è una buonissima lettura per l'estate, quindi ripetiamo il titolo: La fisica di 007, Scienza Express. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao e grazie. Ciao, a presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sai, Chiara, che quel numero che mi hai detto prima è molto interessante. Quanti chilometri di tunnel abbiamo in Europa? 1200, quasi la distanza che va tra Milano e Reggio Calabria, e quasi la metà, pensa, sono in Italia. Eccoli, e non è qua. Difficile da capire la ragione, insomma, il perché. Sai, se ne è parlato tanto, soprattutto in quelli alpini, della sicurezza, del fatto di avere sempre delle allerte, dei sensori che possano garantirne la sicurezza degli utenti, e è stato da poco proprio presentato un progetto per quanto riguarda gli incendi, cioè un robottino che verrebbe utilizzato, piuttosto innovativo, è uno dei sistemi più innovativi al mondo, che possa essere utilizzato per agire in maniera tempestiva, in tempo reale, su un principio di incendio. Quando si sviluppano quelle condizioni. Verrà installato, verrà installato in inverno nel traforo del Gran Sasso, però noi vogliamo cominciare a raccontarlo ai nostri ascoltatori. Allora lo facciamo con un ingegnere che ha studiato tutto il meccanismo. Diamo il benvenuto a Massimo Dall'Agata. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Lei è responsabile tecnico della società, appunto, che gestisce questo iTunnel, l'avete chiamato, la società si chiama GSA, Gruppo Servizi Associati, e iTunnel, ci spieghi un po' lei che cos'è, è un robot pompiere, possiamo un po' banalizzare? Sì, diciamo così, no, beh, in effetti è proprio questo il senso. Il robot è costituito di due elementi fondamentali, un binario, per dirla in maniera semplice, che scorre lungo l'asse della galleria in senso longitudinale, e un elemento che è l'elemento, come dire, intelligente e di intervento, che è un carrello, costituito da un carrello mobile che scorre poi su questo elemento binario. Fisico. Il binario dove sta? In alto, in basso? Credi. Sulla volta? Sì, diciamo, può essere posizionato esattamente al centro della galleria, ma è più indicato un'installazione in posizione più defilata, diciamo inclinata, attorno ai 45-60 gradi. E il robottino, spostandosi su questo binario, cosa fa? Ha dei sensori che percepiscono che cosa? Ad esempio il fumo? Esatto. Beh, diciamo, lui normalmente sta in posizione di ricarica, perché è comunque un sistema che si muove attraverso delle batterie, diciamo, come alimentazione. Nel momento in cui i sistemi di rilevazione, che sono molteplici, ovvero ci possono essere dei cavi termosensibili, ci sono delle termocamere, ci sono delle telecamere di infrarossi, ci sono dei sensori fumo, insomma, diciamo che il sistema ha come elemento innovativo assoluto la certezza dell'intervento. Cioè lei dice l'apparato sensoristico nei tunnel c'è già, in molti lo conosciamo da tempo. Lo scopo di questo progetto è collegarlo a un robot che in pochi secondi può intervenire. In realtà noi abbiamo fatto di più. Abbiamo pensato che minimo il sistema deve essere costituito da due elementi mobili, quindi due robot che possono intervenire in qualunque situazione di ingombro della galleria, ovvero quando avviene un incidente è tipico che poi ci siano delle situazioni di coda, traffico, no? Certo. Anche perché molte volte possono essere, e nei casi tra l'altro più pesanti, possono essere coinvolti anche dei mezzi degli articolati, certo. Addirittura in ipotesi, come dire, più nefasta, anche dei mezzi che trasportano materiale pericoloso, certo. Carburanti, eccetera. Quindi cioè, l'impianto è in grado di intervenire su potenze di fuoco causate da un incendio di autocisterne. Un'autocisterna per benzina. Capirci. Poi questo robottino qui cos'è? Deve buttare fuori qualcosa che sia... Allora, lui chiaramente ha un sistema di alimentazione che parte da una vasca ad acqua, chiaramente viene integrato con dei sistemi estinguenti che sono degli schiumogeni, quelli tipicamente utilizzati dai vigili del fuoco. C'è un dettaglio che io avevo in qualche modo passato per semplicità, ma è un dettaglio non da poco in effetti. La rotaia su cui scorre il robottino è in realtà anche una conduttura d'acqua, cioè la rotaia è integrata al tubo della condotta di mandata dell'acqua. Allora quindi, ci siamo. Invece io volevo chiarire una cosa: quando i sensori avvertono che c'è una perdita, cioè del fumo, insomma c'è il pericolo, che cosa succede? iTunnel si sveglia e corre nel punto in cui in tempo reale c'è la perdita? Esattamente così, cioè lui è in grado, ed è stato previsto anche, di intervenire in modo assolutamente autonomo, ovvero attraverso i sistemi di sensoristica che, come dicevo prima, sono molteplici proprio per raggiungere quello che è l'obiettivo primario del progetto, ovvero garantire l'intervento. È in grado quindi di percepire i segnali connessi all'aumento di temperatura o appunto di fumo e di muoversi. Muove a circa 50 km orari, sì, su questa rotaia. Infatti la progettazione del sistema prevede che l'intervento avvenga prima dello scatenarsi dell'incendio, ovvero sappiamo tutti, o meglio insomma chi è del settore, che gli incendi hanno una certa dinamica di evoluzione. È stato testato che all'interno di ambienti confinati, quali sono i tunnel ovviamente, quindi dove non c'è una libertà poi di movimento dell'aria e delle masse calde, l'intervento deve avvenire entro 5 minuti, perché possiamo essere certi di intervenire prima che si sia sprigionato l'incendio. Una fase preliminare. Ovvero il famoso flashover, che poi è quello che determina, diciamo, la differenza fra un principio di incendio e un vero e proprio incendio. Avete anche pensato ad un sistema che allerti invece i vigili del fuoco, cioè in qualche modo rimandi in centrale? Certo. Poi diciamo che in effetti poi tutte queste segnalazioni sono di fatto derivabili e possono essere chiaramente esplose a tutte quelle che sono le istituzioni e le realtà interessate a conoscere, essere a conoscenza della notizia che nel tunnel. Sì. Lei prima però diceva l'obiettivo non è contenerlo, ma è spegnerlo. Spegnere. Questo sistema, rispetto ad alcuni altri sistemi che userei definire appunto palliativi, non si limita a contenere, quindi a mantenere le temperature per evitare lo sprigionarsi di incendio. Questo sistema spegne. Questa è la grande differenza, insomma, con altri sistemi. Spegne perché ha un monitore e ha l'acqua, anzi l'estinguente, perché poi l'acqua è schimogeno, è indirizzata esattamente dove il fuoco avviene, cioè c'è un inseguitore che va alla ricerca della temperatura e quindi del fuoco, e in quel momento si sta sprigionando e interviene in quel punto. In quel punto, esatto. Senta, nella galleria, quando poi si sviluppa l'incendio, ci sono anche persone. Questo sistema è in grado, come dire, di avere un'efficacia di intervento, ma allo stesso tempo far sì che per esempio, questo volume d'acqua non sia letale per le persone? Sì, certo. Beh, a parte che pressioni d'esercizio e portate sono in qualche modo compatibili con la presenza di personale, di persone, anche di utenza, insomma. Tra l'altro è prevista un'integrazione con dei sistemi di segnalazione audio in cui si va anche ad avvertire il personale, sì, l'utenza, e che l'intervento sta per avvenire. E quindi di abbandonare i mezzi. Siamo per, quindi diciamo che il tempo che lui, dico lui perché effettivamente è un personaggio ormai di rapporto quasi umano con questo sistema, che ci viene da dire lui, ecco, ma in effetti ha una velocità di intervento tale da poter eseguire delle comunicazioni contemporaneamente alle operazioni di aggancio, perché poi insomma dovremo entrare nel dettaglio per specificare esattamente come funziona, ma mi permetto solo un piccolo dettaglio tecnico. Il cosiddetto binario, oltre ad avere anche il tubo di trasporto dell'acqua, ha a stazioni, diciamo, a un passo, a un interasse di 42 metri, ogni 42 metri, una valvola dove il robottino si aggancia e si attacca sostanzialmente a questo rubinetto, a un sistema a valvole, dove lui è in grado di attingere all'acqua, che chiaramente sono a una distanza molto più piccola della sua gittata. Quindi io riesco a coprire tutta la lunghezza del tunnel attraverso il posizionamento a un passo minore rispetto a quella che è la gittata. Siete perfettamente in grado di controllare avvenimenti nei quali si possa scatenare del fumo, ma non c'è bisogno dell'intervento del robottino? Certo, certo, in grado di gestire il false alarm, in quanto il sistema è stato ideato e pensato proprio con dei sistemi di rilevazione multipli, i quali, essendo incrociabili poi dal sistema stesso, danno effettivamente luogo a un allarme esecutivo. Quando questo sistema non rileva contemporaneamente più i sensori, più non rileva più segnali di allarme, il sistema segnala in effetti agli operatori che c'è un problema, diciamo, o a remoto che c'è un'anomalia. In quel caso è solo l'uomo che può attivare eventualmente. Ok, lui non parte in autonomia. Non parte automaticamente al di sotto di una certa gravità. Esatto. E comunque può essere anche settato perché la partenza sia comunque subordinata a un ok, tra virgolette, umano. Beh, in questo modo è molto duttile. Si tratta duttile. Di logiche di funzionamento. Diciamo, il sistema può andare in automatico con delle tarature, con dei settaggi, può andare in semiautomatico, ovvero chiedere l'ok a un operatore per avere diciamo l'ok all'intervento, può essere gestito in modo totalmente manuale, nel senso che lui segnala tutta una serie di fattori, ok, e poi parte c'è chiarissimo. Un comando manuale. Allora, ne sentiremo parlare di iTunnel, perché a dicembre, quando è che diceva che verrà inaugurato? Entro l'anno, al Traforo del Gran Sasso. Grazie, davvero buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro. Siamo in conclusione, Chiara. Sì, dobbiamo però ricordare qualcosa, un appuntamento. Sì, che forse molti ascoltatori e ascoltatrici l'hanno sentito già lanciare da qualche nostro giornale radio, però insomma vi ricordiamo che lunedì, quello che sta per arrivare, il 22, collegatevi al sito di Radio 24 e vedrete in modo molto evidente sulla home page la possibilità, un link insomma, per collegarvi a una diretta streaming, quindi una video online in diretta, perché seguiremo in diretta dai laboratori in cui si mostrerà per la prima volta al pubblico l'esperimento della fusione fredda, di cui abbiamo parlato. Ovviamente sul sito trovate anche le nostre puntate precedenti in cui si spiega l'argomento. Parlato qua a Mebius e anche in altri momenti della radio. È la prima volta che arriva al largo pubblico a mezzogiorno, lunedì ore 12. Sì. Ecco, collegatevi. Buon weekend a tutti. Buona settimana a tutti.